relazioni, cercare affermazioni, trovare soluzioni, desideri e tentazioni. Il mondo del lavoro, l'autonomia economica, l'anello d'oro al dito, un nido dove stare. Avere figli appresso e le difficoltà, perdere i genitori, eventi stressanti, fatti importanti, avere ricordi del tempo andato, we'll be right back. Economía económica.